Rassegna stampa Europa. Buongiorno e benvenuti a tutti alla rassegna stampa europea di Radio 24, la penultima dell'anno. Ci risentiremo ancora sabato prossimo e poi con l'anno nuovo. Questa settimana mi ha colpito in particolare un articolo uscito su un giornale della Lettonia, il Lietuvos Rytas, un giornale di Vilnius, che parla del giovane sindaco della capitale, appunto della Lettonia, che è in realtà russo di origine ed è il simbolo dei difficili rapporti che da sempre legano i lettoni con tutte le persone, con i russi oppure con le persone in Lettonia che parlano russo. Molti criticano questo giovane sindaco per i suoi rapporti con la Russia, per gli altri invece è un fattore di unità nazionale e un fatto positivo che lui riesca ad avere questo fattivo dialogo con la Russia. La foto è bellissima di questo giovane sindaco. Chi mi ascolta da tempo alla radio lo sa, io sono una gattofila, e la foto di questo Nils Usakovs lo vede ritratto con la sua gattina che si chiama Cuzia, è una piccola soriana molto carina. Oddio, non è detto che chi ama gli animali ami anche i suoi simili, però sempre, per me è sempre una cosa positiva. Vi leggo le prime righe dell'articolo. Un agente del Cremlino, un piccolo Putin, il sindaco russofono di Riga, Nils Usakovs, ha dovuto sopportare ogni genere di insulto, ma questi epiteti sembrano scivolargli addosso. Faccio semplicemente il mio lavoro, commenta alzando le spalle. In Lettonia, il Centro della Concordia, considerato un partito filorusso, è un vero e proprio paradosso ambulante. Due anni fa ha vinto le elezioni politiche, ma è dovuto rimanere all'opposizione perché i partiti lettoni si sono alleati contro di esso con un solo scopo: non lasciare arrivare i russi al potere. All'inizio dell'estate il Centro della Concordia, questo partito che è appunto guidato dal giovane Usakovs, ha ottenuto la maggioranza alle elezioni locali. E chi volesse approfondire questo tema interessante, questa finestra su un paese di cui non si parla spesso, la Lettonia, trova l'intero articolo sul sito di PressEuropa.eu, che sapete è collegato al sito di Internazionale, lo dico sempre, un sito utilissimo che tra l'altro rischia di chiudere perché la Commissione Europea probabilmente interromperà i finanziamenti, e quindi vi consiglio anche di firmare, come ho fatto io, la petizione perché resti aperto. È un contributo appunto al dialogo e a superare le inevitabili barriere linguistiche che caratterizzano questa nostra così variegata Europa. Ma veniamo invece a un giornale spagnolo, La Vanguardia, che è un giornale di Barcellona, uno dei principali quotidiani spagnoli insieme a El País e El Mundo. L'articolo si occupa di Angela Merkel, la cancelliera, che insomma non è popolare in Italia, ma non lo è stata per tanto tempo e forse non lo è ancora neanche in Spagna, perché sappiamo benissimo che è l'alfiere della linea del rigore, soprattutto contro i paesi come l'Italia, la Grecia, la Spagna, che hanno dei problemi di conti pubblici. Il titolo dell'articolo è L'Europa aspetta Merkel, il terzo mandato. Sapete, la cancelliera ha guadagnato qualche mese fa il suo terzo mandato, ha vinto le elezioni, ma ci sono voluti quasi tre mesi per formare la sua grosse coalizione, che però adesso finalmente c'è. Una grosse coalizione significa quello che noi chiamiamo le larghe intese, cioè il suo partito, che è un partito di centrodestra, la CDU, si è alleato con la SPD e con i partiti, la SPD che sono i socialdemocratici e anche i partiti di centro, per governare appunto insieme. Con quell'assenza di sfarzo che è diventata una delle qualità del paese, i ministri della GroKo, che sta per grosse coalizione appunto, hanno prestato giuramento uno per uno davanti al presidente del Bundestag, la camera bassa del partito, del parlamento tedesco. Poco prima Angela Merkel aveva ricevuto il placet ufficiale del presidente dello Stato federale Joachim Gauck in occasione di una breve udienza riservata. L'inizio del terzo mandato di Merkel elude qualsiasi forma di ostentazione. Con due mandati in più dei suoi predecessori Konrad Adenauer e Helmut Kohl e uno in più di Gerhard Schröder, sta quasi per raggiungere Helmut Schmidt, sapete, il mitico cancelliere che appunto aveva guadagnato ben quattro mandati. Questa signora venuta dall'est è destinata dunque a entrare nella lista dei grandi cancellieri. Tutto ciò dipenderà da ciò che accadrà in Europa, in questa Unione Europea che usurpa il titolo di continente. Merkel è entrata in carica nel 2005, quando l'Unione rispondeva ancora all'appeal narcisistico che associava il suo nome al benessere e alla pace. La pace europea ha trascurato le numerose guerre che i membri della nuova Europa, nazioni coloniali, hanno portato avanti all'estero dopo la loro adesione e che si trascinano ancora oggi, senza dimenticare il conflitto dei Balcani che si è combattuto all'interno dei suoi confini. Quanto al benessere è semplicemente scomparso. E quindi qui un ulteriore disamina, insomma, anche per Angela Merkel è la donna forte dell'Europa, ma anche lei ha tante sfide davanti a sé, sia interne che appunto esterne, per mantenere questo ruolo di leadership europea. Passiamo a un quotidiano tedesco questa volta, il quotidiano si chiama Die Welt, è un quotidiano di Berlino e l'argomento è quello delle energie rinnovabili, e anche qui, come vedete, la contrapposizione con Bruxelles è ben nota anche su altri fronti, non solo su quello dell'austerità, ma anche quello dell'energia. Il titolo dell'articolo è infatti "Guerra dell'elettricità tra Berlino e Bruxelles". Il 19 dicembre la Commissione europea, scrive Die Welt, ha annunciato l'avvio di una procedura contro la Germania a causa delle esenzioni fiscali alle imprese che usano energia prodotta in fonti rinnovabili. Sapete che la Germania viene spesso presa ad esempio anche da chi in Italia cerca di promuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili come un paese che ha cambiato molto rapidamente il suo mix di fonti di energia, passando pesantemente a quelle rinnovabili, ma l'ha fatto anche, come spesso succede in questi casi, per introdurre grandi novità, l'ha fatto anche con queste esenzioni fiscali. Quindi, scrive Die Welt, Bruxelles pretende che la legge sulle energie rinnovabili, la cosiddetta EEG, venga modificata. Attualmente circa 2.300 aziende di settori a forte consumo energetico, come quello chimico o metallurgico, sono esentate dalla tassa pagata dai privati e dagli altri settori economici, e che ammonta a 23 miliardi all'anno. La Commissione considera questa esenzione non conforme alla legislazione europea sulla concorrenza. E vedremo anche questo, insomma, è una questione che Angela Merkel dovrà affrontare. A proposito di paesi che o sono in trattative, come sappiamo l'Ucraina, abbiamo visto settimana scorsa, o magari lo saranno, magari non per entrare nell'Unione Europea ma per stringere nuovi rapporti, il Corriere del Ticino, che è un quotidiano della Svizzera italiana, ha pubblicato un articolo qualche giorno fa che si intitola "Si ricomincia a trattare con l'Unione Europea". Il 18 dicembre, infatti, il Consiglio federale svizzero ha dato mandato a Didier Burkhalter di riprendere i negoziati con Bruxelles nel campo della fiscalità sul risparmio e delle relazioni istituzionali, a partire dal 1 gennaio 2014, quando assumerà la presidenza tornante della Confederazione. Secondo il Corriere del Ticino, un aspetto salta subito agli occhi: i contorni dei negoziati sulla revisione dei nostri rapporti bilaterali con l'Unione Europea sono definiti e possono essere giudicati con una certa chiarezza, mentre quelli delle trattative fiscali sono incerti. In particolare, l'accesso delle banche svizzere al mercato europeo è una condizione sine qua non della revisione degli accordi fiscali, mentre la questione dello scambio automatico delle informazioni resta vaga. Anche qui ne abbiamo parlato tanto, anche quando si ricomincia a parlare di cercare di far rientrare i capitali italiani che sono all'estero, quindi la trasparenza delle banche svizzere, ma non è naturalmente solo un problema che riguarda gli italiani che hanno dei conti o dei depositi o dei preziosi nelle banche svizzere, sono moltissimi i cittadini stranieri che appunto scelgono di mettere i loro patrimoni in Svizzera, e le banche svizzere ancora oggi sono molto restie a dare informazioni su quanto è all'interno dei loro cavò. Passiamo a un altro quotidiano, questa volta della Turchia, si chiama Hürriyet. Sapete, la Turchia è uno dei paesi più interessanti, questa cerniera tra Oriente e Occidente, candidato a entrare nell'Unione Europea, un paese con una crescita economica incredibile, una percentuale di popolazione giovane altissima, e il titolo di questo articolo è "Tre bustarelle esplosive", e quindi questo per dire che, insomma, appunto, anche quando lo scenario economico è positivo, poi le tensioni latenti ci sono sempre. Il 17 dicembre la Guardia di Finanza di Istanbul ha lanciato un'operazione anticorruzione in cui sono state arrestate i figli di tre ministri, un sindaco del partito di governo AKP e diversi uomini d'affari vicini al premier Recep Tayyip Erdogan, in totale 50 persone. Sono sospettati di tangenti, frode e riciclaggio in tre inchieste separate. Gli inquirenti li avevano messi sotto sorveglianza fisica e elettronica da mesi, e il quotidiano spiega che l'inchiesta è stata portata avanti nel più stretto segreto. Un'ultimissima segnalazione da un quotidiano irlandese, l'Irish Independent, un quotidiano di Dublino. Sapete, abbiamo citato prima Spagna, Italia e Grecia come paesi in difficoltà, anche l'Irlanda è stata salvata, è stata oggetto di un bailout. L'articolo del quotidiano si intitola "Il bailout è finito, l'austerità no". Il 16 dicembre, infatti, l'Irlanda è uscita dal piano di salvataggio, liberandosi dalla pesante tutela della Troica, ma le difficoltà dell'economia europea continueranno a condizionare anche quella irlandese. inglese, e c'è questa lunga disamina di Maeve Dynan, che cerca anche, forse ci serve leggerla, e lo ripeto, la trovate tradotta in italiano sul sito di presseurope.eu, perché questi temi del bailout, dei paesi in difficoltà e dell'austerità soprattutto, credo che continueranno a riguardarci almeno per tutto il 2014. Un caro saluto da Giulia Crivelli, un buon sabato, una buona domenica, arrivederci alla settimana prossima. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.